Friuli nel mondo. Friuli nel mondo, terza trasmissione dedicata agli emigrati. Profili di paesi. La Siena del Friuli. Testo di Chino Ermacora. Partecipano alla trasmissione il cardinale Celso Costantini, il soprano Adele Stitti con il coro Mazzuccato di Udine diretto dal maestro Mario Dini, il coro della Pari di San Daniele diretto da Don Tullio Tavagnacco, un gruppo di cantori friulani di Parigi, parenti e amici di emigrati. Verranno eseguiti canti popolari, musiche originali di Luigi Garzoni, il canto di San Daniele su parole di Meni Duse e di Ezio Vittorio, preghiera ad una bimba su parole di Girani Petrozzi. San Daniele, con i suoi 1000 anni di vita, non è soltanto la Siena, ma anche il cuore del Friuli. All'armoniosa parlata della sua gente s'accorda infatti il profilo della città, nel centro dell'anfiteatro morenico punteggiato di candide chiese e di diroccati castelli contro la galoppata azzurra delle Alpi. Al libero reggimento della comunità medievale si innesta la tradizione umanistica. Guarnerio d'Artegna, insigne letterato ed amanuense lui stesso, legò nel 1466 alla pieve di San Michele la biblioteca che prese il suo nome, preziosa di codici miniati, arricchitasi di successive donazioni. Martino da Udine, detto pellegrino da San Daniele, allievo del Giambellino, dipinse nella chiesa di Sant'Antonio un ciclo d'affreschi molto eccellentemente, come nota il Vasari, testimonianza del suo attaccamento al paese della dilettissima sposa. E qui Andrea Palladio lasciò i segni del suo genio architettonico. Qui Teobaldo Cicconi, romantico anticipatore del teatro moderno, scrisse pagine vivide di amor patrio. Qui sordirono le fila della leggendaria insurrezione armata del 1864. Un pugno di audaci contro un impero. La continuazione ideale, sostenuta da Mazzini e da Garibaldi, dell'impresa dei mille, alla quale Antonio Andreuzzi, medico a San Daniele e capo di quei frodi, aveva partecipato. San Daniele del Friuli. Brillano gli occhi nel desiderio del celeberrimo prosciutto, delizia delle mense dogali. Bianco come la neve, roseo come un geranio, dolce al palato come un frutto maturo. San Daniele, infine, alimenta da decenni le correnti emigratorie. Suoi cittadini figurano tra i fondatori dei Fogolars a Buenos Aires come a New York, onde appare appropriata la diffusione dal cuore del Friuli del nobile messaggio che il cardinale Celso Costantini ha affidato a Friuli nel mondo. Ascoltatelo. Miei cari compatrioti, vi invio da Roma un cordiale saluto e la mia benedizione, pregando il Signore perché assista le vostre famiglie e il vostro lavoro. Conosco codesto duro lavoro, perché anch'io ho cominciato la mia carriera come operaio. Ma il lavoro è una necessità, è un superiore comandamento, è il sostegno della famiglia e l'onore dell'uomo onesto. Ho incontrato i friulani in tante lontane terre e ho constatato come tutti riconoscono che i lavoratori friulani sono esemplari per l'intelligenza e per la probità della vita. Io sono un vecchio missionario e sono stato 10 anni in Cina, dove da secoli hanno lavorato e lavorano i nostri bravi missionari friulani, uno di Gemona, che è stato un valoroso capitano nella Grande Guerra del 1915-1917 e ora in carcere per la fede. Dobbiamo ricordare particolarmente il nostro beato Dorico da Pordenone, che 6 secoli fa fu a Pechino con Marco Polo. Ritornò nel Friuli per reclutare altri missionari facendo il viaggio a piedi e scrisse le sue memorie offrendo col milione di Marco Polo uno dei più antichi testi per la conoscenza dell'estremo oriente. Consunto dalle fatiche, morì ad Udine nel 1331. Miei cari compatrioti, anche voi dovete essere in un certo senso bravi missionari, facendo onore alla nostra patria e alla nostra religione. Addio. Appropriata in questo momento saturo di nostalgie, anche la preghiera ad una bimba, da questa rivolta al padre che, costretto ad abbandonare il tetto domestico, non si è più fatto vivo.